Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Genova è certamente, lo sappiamo, una delle città italiane più impegnate nella partita delle Smart Cities. A Genova è nata un'associazione che raccoglie tutti i soggetti coinvolti e potenzialmente coinvolti in questo processo di trasformazione, dall'amministrazione comunale alle imprese, dalle università a tutti gli altri enti, come per esempio l'autorità portuale. Sono molti i progetti che Genova ha in animo di realizzare ed è proprio di poche ore fa la notizia che la città ligure è decisamente sulla buona strada. La notizia però io voglio farla dare dalla nostra ospite, che è Gloria Piaggio, che recentemente ha presentato il progetto Genova Smart City nel corso della giornata della ricerca ANI. E Gloria Piaggio è dirigente comunale e segretario generale dell'associazione appunto Genova Smart City. Buonasera Piaggio. Buonasera. Allora, Genova è lieta di annunciare che ha vinto tutte e tre le call alle quali aveva partecipato nell'ambito del bando per le Smart Cities and Communities lanciato dalla DG Energia della Commissione Europea a luglio e chiuso a dicembre, e noi abbiamo partecipato nei tre topics che sono la pianificazione, il riscaldamento e raffreddamento e l'efficientamento energetico degli edifici, partecipando con dei consorzi europei, con tante altre città ed imprese, e siamo stati finanziati su tutte e tre. Nei primi due siamo anche arrivati primi. Vuol dire che siete veramente sulla buona strada e avete confezionato dei progetti convincenti, perché l'Europa è molto selettiva proprio a livello della qualità del progetto e degli attori coinvolti. Di questa cosa vogliamo sicuramente parlare e approfondirla, ma lo faremo settimana prossima, perché invece c'è un tema di cui mi sembra davvero importante parlare. Genova ha conosciuto tra l'altro pochi mesi fa, a causa di un fenomeno meteorologico estremo, si è parlato addirittura di bombe d'acqua, momenti molto drammatici. Parliamo di novembre e parliamo di una situazione che ha anche causato dei morti. Ebbene, uno dei progetti su cui state lavorando può contribuire, diciamo, perlomeno a gestire situazioni come emergenze meteorologiche che oggi stanno capitando, non è più acqua ma è neve in tutta Italia, e parliamo di una sorta di cruscotto informatico. Ecco, intanto ci dica un po' in generale di cosa si tratta. Allora, il cruscotto informatico è una metodologia che, sfruttando le tecnologie che lo consentono, mette tutti i dati a sistema che provengono da diverse fonti per consentire una pianificazione, una programmazione di qualunque avvenimento si voglia gestire, questo in senso astratto. In senso concreto, in una città può voler dire molte cose, può voler dire che io metto a sistema i dati che provengono, ripeto, da privati, da pubblici, dal pubblico che a volte non sa neanche di avere questi dati, e con questo cruscotto intelligente riesco a pianificare le cose normali e soprattutto l'emergenza, prevenirle risparmiando anche vite umane. Ecco, che mi sembra la cosa più importante. Allora, diciamo che le previsioni dicono: attenzione che su Genova sta per arrivare una precipitazione eccezionale. Che tipo di contributo può dare in questa circostanza questo cruscotto informatico, che per ora esiste credo solo a San Paolo del Brasile? Sì, esiste non soltanto a San Paolo, anche in altre città, ma San Paolo è un esempio molto chiaro dove è stato implementato, giusto l'esempio che lei fa. Allora, i meteorologi mi dicono che arriverà una tempesta eccezionale. Io so che la fognatura che ho nella strada X riesce a reggere una portata di questo genere. Allora, mi attrezzo per mandare la mia squadra di emergenza velocemente a lavorare sulla fognatura. Nello stesso tempo pianifico già il dirottamento degli autobus che facciano un circuito alternativo informando la popolazione. Poi avviso evidentemente tutti i mezzi di emergenza, vigili del fuoco, ambulanze, via dicendo, che non passino da quella strada. Con un sistema di smartphones che si sono collegati agli abitanti in modo volontario, io avviso che devono stare attenti e non passare da quella strada e trovare circuiti alternativi, perché quel giorno non sarà possibile passare da quella strada. C'è una scuola che ha la porta principale su quella strada, io di nuovo avviso la scuola che esca dalla strada secondaria. Allora, io con questa metodologia risparmio, prima che avvengano, tutti quei soldi che mi sarebbero costati dirottare le persone dentro all'autobus, spostare l'ambulanza mentre ci stava andando, mandare la squadra in emergenza durante la pioggia torrenziale. Quindi è abbastanza evidente che sono interventi, il cruscotto intelligente, nel medio e lungo periodo, ma probabilmente più nel medio che nel lungo, io me lo sono autopagato. In San Paolo del Brasile era stato pensato per affrontare il rischio delle favelas che sono costruite spesso su fango e slittano verso la città. Ecco, diciamo che per esempio a novembre con un sistema di questo genere sarebbe stato possibile decidere di chiudere le scuole all'ultimo momento avvisando tutti gli alunni, per esempio. Esatto. Allora, la Smart City, un cruscotto intelligente in senso anche molto ampio e specifico e concreto, significa questo, significa avere la capacità di pianificare, di dare delle priorità. In inglese, per esempio, dove questo tipo di mentalità è più usuale, hanno addirittura un verbo, che è il verbo prioritize, che significa dare delle priorità, una parola latina, eppure noi non ce l'abbiamo. E poi stiamo proprio vedendo in questi giorni che cosa sta accadendo in Italia, no? Noi diciamo sempre manca la prevenzione, non che non si debba fare, ma almeno se non si è in grado di fare la prevenzione bisogna proprio essere attrezzati, organizzati per affrontare le emergenze. C'è proprio, come dire, un confine economico addirittura che può essere studiato a tavolino fra questi due approcci alternativi, o meglio sarebbe complementari. Infatti, perché noi non pensiamo di doverci attrezzare per esempio a Genova contro uno tsunami. Lo tsunami non avverrà mai, o se avviene speriamo, è una probabilità talmente remota che non avrebbe senso di dotare tutte le scarse risorse. Fare un muro di 50 metri davanti a tutta Genova, ecco, non è praticabile, esatto, come soluzione. Mentre invece noi sappiamo che regolarmente ogni 2-3 anni, 5 anni ci sarà un qualche fiumiciattolo, ed è inesistente per i foresti, per chi viene da fuori Genova non lo vedete il fiume, eppure è capace, ahimè, di ammazzare 5 donne come è successo a novembre. Allora, questo tipo di prevenzione noi la possiamo fare, e non è la prevenzione di andare a togliere tutte le case che magari nei secoli sono state costruite negli alberi dei fiumi, ma significa poter usare, come abbiamo detto, poter magari avvertire gli abitanti che quel giorno da quelle case se ne devono andare, insomma, e avere un elenco di priorità, dire allora questo intervento è più importante di un altro intervento, e quindi io scelgo. Allora, anche per un sindaco, un presidente di una regione, diventa una scelta informata, educata e non casuale, portata da onde emotive che non necessariamente poi portano nel medio e lungo periodo alla gestione ottimale di questo organismo che è la città. Grazie Gloria Piaggio, ci sentiamo settimana prossima. Grazie, a presto. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.